Allora apro immediatamente di base perché non prende la parola. Allora. Ha subito per fare io immediatamente la domanda alla Manera. A proposito dei due poteri, restrittivo e legislativo, in che misura c'entra il lochismo di cui parlavamo ieri? Anche l'OP parla solo dei due poteri, cioè parla anche di un terzo potere, il federativo, e allora che riguarda la politica internazionale, allora in questi, degli attori che tu hai guardato, che dimensione ha la politica internazionale in questo contesto? Ma adesso veramente è una domanda di un po' così. Comunque la mia impressione è che non ci sia, cioè così come prima risposta mi devi dire che non c'è un rapporto con la tradizione locchiana e che non ha neanche una grande importanza il problema della politica internazionale. Più si concentra l'attenzione sulle differenziazioni interne alla legislazione in rapporto con quella che sarà poi la tematica dell'ordinamento del terrorismo. Quindi è questo, mi pare, l'elemento che gioca particolarmente. Non mi pare che ci siano tradizioni locchiane che vengono particolarmente recepite e vengono usate anche senza citazione, e non mi pare che funzioni molto l'elemento della politica. Però mi sento di riguardarlo comunque. Io volevo porre brevemente un problema che Riera Valera ha sollevato intorno alla questione della statualità, del momento della statualità in Jelinek. È vero che l'individuo di padre Jelinek è un soggetto giuridico, è una questione delicatissima, è un soggetto giuridico. Cosa vuol dire questo? Che la personalità è una creazione dello Stato nella concezione di Jelinek. Infatti Jelinek dichiara, non c'è Dürfen senza können, cioè non c'è licere senza posto. Questo können, questo posto che cos'è? È praticamente la capacità giuridica concessa dallo Stato all'individuo se l'interesse soggettivo è rilevante per l'interesse pubblico. Quindi c'è una fortissima accentuazione della statualità. L'esito qual è? È appunto paradossale, perché dice poi qualche anno dopo, un anno commentando, innovando in parte il discorso di Emmi, è certo che la maniera tipica, caratteristica con cui il diritto di libertà si esercita non è l'azione davanti all'autorità giudiziaria, e invece l'esito congiunge ieri, come dire, il momento del diritto di libertà tradotto soltanto in questa azionabilità del diritto davanti all'autorità giudiziaria. Ecco, questo è il punto. Il problema poi viene sviluppato brevemente, perché è un problema che è stato posto anche da Kelsen, quando appunto si pone all'interno della dottrina di Jelinek, che la sviluppa coerentemente, dicendo che il diritto soggettivo finisce per essere la norma giuridica. Allora dice Kelsen, non lo dice Jelinek. Cioè, il mio problema è, c'è già una trasformazione di Stato in ordinamento giuridico, o invece il momento della statualità continua a rimanere Stato-persona titolare di un forte potere di imperio? E questa lettura interna invece soltanto di Kelsen. Però questo è il problema della questione dell'ordinamento giuridico, dove vorrei coinvolgere anche appunto gli giuristi, perché per me è un problema tutto aperto. Cioè io ritengo che questa superiorità dell'ordinamento giuridico rispetto allo Stato in niente ancora non ci sia. Adesso non possiamo, dato questo tempo qui, più di più, ma non è che siamo buttati lì, cioè le risorse vanno usate. No, io non lo so, perché mi pare molto, voglio fare due piccole riflessioni, una appunto relativa a Valeria e poi anche a lui. Sì, Gabriele naturalmente ha dovuto esporre la sua riflessione, la sua comunicazione in un tempo molto stretto, e forse questo ha provocato dei cortocircuiti. Io sono rimasto molto colpito da questo problema che ha sollevato adesso Gozzi, Credo che a me piacerebbe che avessero ragione tutte e due, insomma, ecco, nel senso che non dubito, cioè non so, io però non sono veramente di Eli, ma lo voglio studiare più presto. Cioè, non dubito che Jelinek abbia una costruzione interna, diciamo così, del suo ragionamento che è fortemente giuridica. Cioè, che non consente dal punto di vista formale di accettare così, senza discussione, la conclusione drastica a cui è arrivata Gabriella. Però da un altro punto di vista mi chiedo se non si possa vedere in Jelinek uno dei punti proprio più spinti in avanti di razionalizzazione del discorso giuridico applicato allo Stato e che quindi magari non in lui propriamente, direttamente, ma che nella sua costruzione vi siano in qualche modo le premesse, insomma, perché poi scatti un meccanismo di spaccatura tra queste due realtà. Cioè, voglio dire, ho l'impressione, e questo lo dico anche con riferimento a Max Weber, che credo abbia preso quasi tutto da Jelinek rispetto alla sua costruzione dello Stato Anstalt, no? Cioè, la mia sensazione è come che in Jelinek, o comunque intorno a Jelinek, se non so dire che lo studiamo, intorno a quel fenomeno lì, si sia arrivati ad una sintesi, no? Logicissima, inattaccabile dal punto di vista interno, ma così forte, che poi alla fine non riesce più a stare dietro a quelli che sono i reali, le spinte concrete a cui lo Stato concreto deve rispondere. E che quindi lì ci sia una specie di, in qualche modo, stacco, insomma, di punto di passaggio, che cioè forse non è tanto coglibile nella costruzione teorica di Jelinek, ma è coglibile nella, diciamo così, applicabilità di questa sua posizione teorica a quelli che sono gli eventi che riguardano lo Stato concretamente nel suo esercizio cittadino. Questo lo so, è molto confuso, però una traccia che io vorrei proseguire, anche e soprattutto, ripeto, per capire Weber, la cui concezione dello Stato ha drammaticamente influito sulla nostra mentalità statalistica novecentesca e anche attuale, secondo me, in modo particolare presso gli storici, e la cui posizione dello Stato, secondo me, di Weber, è invece, io trovo, estremamente fredda, rigida, insomma, cioè non... E quindi a questo punto, per esempio, io vorrei fare, prossimamente una rilettura dei commenti che Otto Hinze fa sia a Weber che a Jelinek e quando si vuole lo Stato. Quindi non è né una critica né niente, sono solo un contributo, così una offense, un offense, un corso che mi dice tutto. Invece al professor Blom, io non sono sicuro di aver capito tutto perché effettivamente parlava un po' in fretta e noi italiani siamo notoriamente privi di conoscenze linguistiche raffinate per quello che riguarda le lingue straniere, per poter parlare a nome di tutti. Tuttavia, un problema intanto che ho è di capire perché ha scelto questo pamphlet di von Brueghel, come si chiama, insomma, e non altri scritti saranno, cioè quanto rappresentativo è questo signore e questo scritto. Questa è la prima domanda che vorrei porre. La seconda domanda, cioè, è questa. Questo discorso della costruzione mista è un discorso, se io per pochissimo che so, che c'era già stato, è classico, insomma, no? Per l'Olanda. Già nel 600, sì, alla fine del 600, io vengo scritto, non lo so molto come si chiama, in cui proprio si fa la comparazione fra la Costituzione francese e la Costituzione inglese, quella olandese, si dice che l'olandese è migliore delle altre due perché è quella che è mista e che, oltre ad essere mista, proprio perché è mista, riesce anche a garantire da una parte la sua libertà, ma soprattutto a rispondere meglio ai bisogni commerciali, no? Produttivi, insomma, che la situazione del tempo già propone. Quindi questo mi pare che sia una struttura, un tema classico nella considerazione politica olandese. Non so se sia vero, sarebbe interessante avere una conferma. Terzo punto che mi interessava molto, anzi altri due punti. Il terzo punto è questo insistere che lei ha fatto sul concetto di trust. Questo concetto di trust è un concetto, sappiamo tutti, importantissimo, ma è importantissimo ovviamente più in ambito, insomma, anglosassone che non in ambito, continentale, no? Allora, il fatto che invece a metà, cioè nella prima metà dell'Ottocento, in sul continente, si insista sul trust come una delle possibili chiavi di spiegazione della Costituzione olandese, lo trovo molto significativo riguardo alla solita sempiterna questione delle differenze che ci sono tra la Costituzione inglese e la Costituzione continentale. L'ultimo punto che mi interessa molto, perché dovrei lavorare sopra la lettura, è quello relativo al patriottismo politico. Cioè, effettivamente, che è l'ultima parte, mi pare, cioè l'aveva già citata anche prima, ma poi alla fine lei mi pare che ha detto che in fondo è questo richiamo al patriottismo politico, forse più che al nazionalismo, che fa da che trasforma in qualche modo il vecchio orangismo in una, invece, in un linguaggio politico, in una politica più alla del paese, che è anche questo. Sono Konstruktion zu ihrer sehr interessanten rhetorischen oder methodologischen Vorgehensweise. Das heißt, Sprachen zu trennen nach der politischen Praxis von der juristischen Praxis. Sie haben, glaube ich, mit Reule mehr oder weniger die politische Praxis vorgeführt. Es wäre natürlich sehr interessant, einmal zu vergleichen, in welcher Beziehung abweichend, bestärkend oder zurückbleibend diese politische Sprache gegenüber der juristischen ist. Diese zwei Welten, die ja in der Öffentlichkeit arbeiten, und das wird natürlich besonders interessant, wenn Juristen das politische Geschäft betreiben, könnte ja zu einer sehr seltsamen Spaltung der Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch der juristischen Figuration führen, mit erheblichen Verständigungsschwierigkeiten. Was Sie vielleicht gemeint haben mit dem Problem der sogenannten ideologischen Einbettung in die Sprache. Das führt mich auch auf ein Wort von Frau Valera. Die Frage der Autonomie des Rechts ist natürlich nicht nur eine Frage der Qualität von Recht und ihrer, sagen wir, Dogmatik, sondern vielleicht auch der Sprache oder der Gesichtspunkt ihres Vorgehens. Sì, questa volta sono breve, ma una domanda per la Valera. Tu sai che anch'io mi sono recentemente un po' occupato di questo, del problema del governo e dello scarto concettuale che c'è nel momento in cui nasce la Herrschaft in senso moderno, per cui se governo noi chiamiamo quello che troviamo nella distinzione tra le cosiddette forme di governo e Aristotele, di governo in questo senso non possiamo più parlare, ma è significativo questo passaggio del governo ad indicare il potere esecutivo. Naturalmente so che io però mi sono riferito a Kant, il problema poi è molto più complesso. Volevo sapere nei materiali che tu hai visto se e come, quali determinazioni e usi del termine Regierung hai trovato e soprattutto che indicazioni hai in relazione a un modo ben più complesso della riduzione al momento esecutivo, no? Appunto hai trovato riguardo al governo. Brevissimamente, volevo l'intervento di Piero, mi fa venire in mente due domande brevissime, una da Valera e una su Blu. A Valera credo di non dire niente di nuovo, ma se le chiedo per l'appunto di aggiungere qualche cosa in relazione ad un altro aspetto che va considerato quando si prendono in esame questi autori a proposito di teoria dello Stato, eccetera. Mi spiego in breve, riprendendo lo spunto di Piero su Max Weber e lo Stato. Lì c'è anche un'altra fonte, se noi pensiamo a Max Weber e la teoria dello Stato, oltre ai giuspubblicisti di cui si è parlato, ed è Mons, ed è la Costituzione romana di Mons. Allora la domanda da Valera è questa. La riflessione storica, la riflessione non soltanto di teoria dello Stato, ma la riflessione di storia dello Stato, che è ovviamente in primissimo luogo la riflessione sullo Stato romano, ecco perché citavo Mons, è una componente essenziale nella costruzione di queste figure che tu ci hai illustrato. E forse questa potrebbe essere anche una strada da tenere presente lo Stato. Nel tipo di problemi che ci pone. Ma insomma, per brevità, passo al professor Blum. Sì, anche qui Piero ha giustamente fatto, ha giustamente osservato, posto in rilievo che il tema della Costituzione olandese come modello alto perché corrispondente al quel perfetto modello che la Costituzione mista attraversa tutto il dibattito politico europeo del Seicento. Tra l'altro lo attraversa con una caratteristica molto evidente ed è il continuo confronto con la Costituzione veneziana. Venezia e l'Olanda sono due repubbliche e sono due repubbliche che rappresentano quell'appunto il modello della il modello appunto della Costituzione vista, eccetera, eccetera, sono cose note. Tra l'altro, oltre che la somiglianza sul piano del mito, il mito della Repubblica Veneziana, il mito della Repubblica Olandese, c'è una realtà poi obiettiva, sono due repubbliche oligarchiche, quindi dal punto di vista sociale hanno strutture abbastanza comparabili, per certi versi abbastanza comparabili, comunque si fanno spesso dei paragoni. Persino dal punto di vista economico è frequente nella pubblicistica che si facciano di questi confronti. La domanda, quale che sia il giudizio sul mito, che voglio evidentemente lasciare da parte, certamente uno degli elementi forti che contribuisce a costruire il mito, certamente per quanto riguarda Venezia, che contribuisce a costruire il mito in Europa, è costituito dalla forte solidarietà politica che la Repubblica Veneziana esprime attraverso questo suo sistema politico che per l'appunto genera quindi ammirazione. Il cemento è indubbiamente un forte patriottismo, però nel caso veneziano il patriottismo veneziano è fortemente strutturato su base religiosa, cioè a Venezia il patriottismo veneziano è il patriottismo di San Marco. San Marco che è la cappella del Doge, non è il Duomo, è la cappella del Doge, eccetera. Ecco, io credo che, non so se si possa su questo piano fare un'analogia anche per quanto riguarda il patriottismo olandese. Mi permetterei di chiedere se è giusta la mia sensazione che in quel caso forse si potrebbe dire sì, data la struttura calvinista nella quale si determina l'indipendenza. Però questo naturalmente vale per il 600, per l'800 olandese non saprei proprio se si possono fare queste estensioni. Altre domande? No. Allora, brevemente sono Gustavo e a Piero insieme. Io ho molto tagliato il mio discorso e l'ho tagliato proprio perché volevo far venire fuori l'altra, cioè non quella che si dice normalmente di etnica, che è giustificato perché è legittimo, perché è vero che lui parla di questa superiorità dello Stato nel momento in cui si costruisce il soggetto, quindi questo non è innegabile, però mi pare che ci sia tutto l'altro aspetto che costituisce tensione all'interno della sua stessa opera e che viene meno messo in evidenza. Quindi ho tagliato il discorso mettendo in evidenza l'altro lato. In particolare, mi sembra che ci siano due o tre cose che non vengono notate e che invece potrebbero poi dare un contributo anche per capire meglio come questa tensione si componga. E la prima è che si ricollega col discorso della non accettazione del concetto di finzione in giurisprudenza, no? Quindi della sostituzione del concetto di astrazione rispetto al concetto di finzione. Lui dice, parlando della costruzione del soggetto e della volontà, che è un termine che ho lasciato completamente da parte, perché il problema della formazione della volontà è un problema straordinariamente importante proprio nel confronto di come si costruisce un discorso politico, di come si costruisce un discorso giuridico, però nel parlare della volontà e della costruzione della volontà, lui dice che i soggetti giuridici sono nient'altro che persone fisiche e come tutte le persone fisiche possono volere non soltanto per sé ma anche per altri, così anche questi soggetti che poi hanno, diventano organi dello Stato eccetera, possono volere stepper-treated anche per altri. Ora, naturalmente questo può apparire un modo semplificante di risolvere la questione, tuttavia mi sembra mettere in evidenza appunto il tentativo di non prendere il concetto di stepper-treated come concetto di rappresentazione politica nel senso più comune del termine, il tentativo appunto di ripensare il problema della rappresentazione in termini di persone fisiche che però poi diventano persone giuridiche, che acquisiscono una soggettività giuridica peculiare, che è quella poi di essere organi di questo elemento astratto che è lo Stato, che però può venir meno nel momento in cui le volontà delle persone fisiche non funzionano più e non riescono più ad essere composte in maniera che venga fuori questo elemento astratto. Questo è un elemento che mi era parso interessante e che mi pare può intaccare anche la costruzione dogmaticamente perfetta, non so se sia giusto il termine dogmatico qui, perché voi giuristi lo usate in una maniera tutta particolare, comunque la costruzione che mi sembra dogmaticamente perfetta della differenza tra Wollen können e Wollen dürfen, cioè il suddito che ha il permesso di volere e invece il dominante. È interessante che lui usi proprio l'espressione dominante e suddito, che è quella tradizionale, e lui in qualche modo cerca di ricomporre questa problematica o di rivedere questa problematica del dominante e suddito all'interno invece di un altro modello, che è quello dei diritti pubblici soggettivi, dei diversi soggetti di diritto pubblico. Quindi questo mi sembra molto interessante. Poi, quando all'interno, quando costruendo la concezione del soggetto pubblico, del diritto pubblico soggettivo, fa la differenza tra i diritti soggettivi privati e i diritti soggettivi pubblici, la differenza non è di forma, ma è di interessi, cioè è l'interesse collettivo, cioè la qualità dell'interesse che differenzia il privato dal pubblico, non la qualità giuridica, la qualificazione giuridica della persona. Questo a che cosa serve a mio parere? Serve appunto a creare dei soggetti che giuridicamente possono essere posti sullo stesso piano, che però proprio in virtù del fatto che possono volere come persone fisiche cose diverse anche per altri, finiscono con rappresentare meglio o peggio quell'elemento formale, quell'elemento contenutistico, quell'elemento sostanziale che costituisce il momento di differenziazione tra il privato e il pubblico, e quindi possono creare appunto scontri, che sono scontri di forza, scontri sociali, che hanno poi un significato diverso e che possono sfociare un tipo di rottura anche dell'ordinamento. E questo mi sembra abbastanza significativo, perché mi pare portare ad una conclusione, mi pare portare ad una conclusione che diciamo, si può avere una regolamentazione dell'uso del potere, ma che il potere in quanto tale è un'altra cosa, non può essere legittimato da nulla, cioè non ha legittimazione, che era tutto quello che invece aveva fatto il contrattualismo attraverso la costruzione della persona morale. Lì c'è veramente qualcosa in più, come fatto concreto, il riconoscere che la persona morale può legittimamente volere. Invece nel caso di Etnik, appunto, l'in più dello Stato è un'astrazione, non è un qualche cosa di sostanziale. Dal punto di vista sostanziale e della forma giuridica del rapporto tra le persone di diritto pubblico non c'è differenza. Quindi mi sembra che questo elemento sia veramente un elemento di rottura forte. Per quanto riguarda il rapporto tra Weber e Jelinek, io non posso dire nulla, posso usare il momento, dire una riflessione alla gente. Per quanto riguarda dunque il linguaggio, l'autonomia del linguaggio, sì, mi sembra importante, proprio in questa prospettiva io sottolineavo che è il termine concetto Stato, così come noi siamo abituati a pensarlo, in rapporto con la lunga tradizione che ha comunismo mischiato insieme diritto e politica, che mi pare non funzionare più e non avere dovuto essere pensato. Poi, ma sono 3 minuti, non capisco più niente. 3 minuti complessivi. Allora, vogliamo rispondere Well, I will try to do it in 3 minutes, but on the other hand, that would be... It would be derogatory to the interesting questions that have been posed, but I'll nevertheless do it in 3 minutes. About the representativeness of this little pamphlet, from a methodological point of view, I would prefer to say that you decide on the representativeness of such a pamphlet by showing that it belongs to a whole discourse that's gone on, actually. And in this specific case, I have taken it because it is so nice, halfway between the first constitution of the 19th century and the second constitution, and provides a kind of bridge between both, because it indicates what is the underlying problems. There have been several questions about the constitution of the Republic, and they are very interesting because they are quite in the middle of some of the major research that's going on at the moment. The problem of mixed constitution, both in comparison to the problem of the commercial interest and in comparison to Venice, is a very on one hand it's very complicated, because there is not one theory of the mixed constitution. The most interesting thing that I could bring forward is that the Dutch Republicans of the 17th century, like Delacour and Spinoza and others, are against the mixed constitution. Those who belong to the Republican tradition are not on the side of Venice in this respect. So that is one way to indicate that the debate over what exactly is the Dutch constitution in the Republic has been much more important than most foreign commentators, even at that time, realized. The Dutch constitution was so effective because it did not have one dominant ideology. It was a balance of different views that interlocked on all different kinds of things, on religion, on sovereignty, on representation, etc., etc. So there has been a study on the influence of the Miss of Venice, and the conclusion is that Venice has been studied by the Dutch very extensively, but what they made of it was something totally different from what it was in Venice. And the same thing applies to religion. Essentially, there was no consensus about the role of religion in Dutch politics. And there was no San Marco. What we had was a church in Amsterdam, which had the name Moses and Aaron, indicating that church and state are separate. And the church is still there. Next to the Rembrandt House, and I would like to show it to you as one of the specimens of that. Okay. the problem of trust then comes next, and it's I would defend that it is a remnant of the Republic. This is one thing most foreign commentators realize, that in essence Dutch politics in the cities was politics in a very close political community, where you could sit the burgomasters of the city on the steps of their own door. That is to say, there was no big difference between governors and governed. And this notion of forming a community in which you take political decisions and in which you you can correct on a more extensive basis than only along formal lines, this notion of political community is formulated in the 19th century in terms of this notion of trust. It's connected to the local community. And therefore, this distinction between patriotism and nationalism can also be taken in the same sense, that you have the local notion of patriotism. Patriotism always presupposes that you form an effectively existing community against this more abstract notion of nationalism, of the liberal national states, in which you refer to some symbols of the historical past, but not to its real political past. And, let me end by making a remark on one of these methodological issues about the relationship between actual political ideology and system of law. I'm rather tempted, on the basis of the Dutch history, to say that they almost by principle are asynchronous. There is no natural link between law and politics. If you take, for example, Grotius, the role of Grotius in Dutch politics is very complicated, but he was received. There's one nice example. There is a Utrecht lawyer, Van der Mulen. He is known in some way. He made a big commentary on Grotius. And he says, I started reading Grotius because Pufendorf thought so highly of him. And, this is the nicest comment you can have on the relationship between law and politics in the Netherlands. Another point is, in recent reformulation of the Constitution, 83, there has been some debate about the preamble of the Constitution, whether this preamble has to be, a dogmatic definition of principles of Dutch political life, or not. And the prevailing view was that you better somehow try to summarize what people think in the community, and not trying to build a juridical, abstract and perfected system. But I agree that there is a big difficulty, because there's always this danger in the system of law to reify itself. But on the other hand, there is the tendency in politics to be irresponsible and to demand things of the state that you cannot demand. Thank you. Allora.